Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Ho seguito la polemica sull'uso più o meno eticamente corretto del termine negro. Secondo la linguistica moderna, il valore linguistico di un termine, ovvero il significato di una certa parola, si costituisce in modo esclusivo all'interno della relazione che esso intrattiene con gli altri elementi di quel sistema. Come dire che al di fuori di quel particolare contesto referenzialistico non ha alcun valore, ovvero non ha alcun significato. In tal modo, seppure un determinato termine del nostro vocabolario rimanda solitamente a uno specifico oggetto, e di tale oggetto costituisce dunque il suo significato denotativo, la relazione non si limita a legare una parola a una cosa, poiché è il valore linguistico a determinare il significato di quella parola all'interno di quella particolare situazione discorsiva, e non già il suo valore intrinseco, che di fatto non esiste, o se esiste è comunque in sé neutro. Quindi è giusto dire che l'uso della parola negro in sé non è né corretta né scorretta. Gianluigi. Una pallina bianca è uguale a una pallina bianca. Una pallina bianca è diversa da una pallina nera. E nessuna delle due palline si sente offesa per questo. Strano. L'uomo, che ha il senso della giustizia, tende all'uguaglianza. Anzi, ha fatto un sacco di cose curiose in nome dell'uguaglianza. Per l'uomo l'uguaglianza è addirittura una malattia. Noi tutti diciamo un bianco è uguale a un negro. Forse il negro è un po' più un marroncino. Oddio, non sarò mica razzista, eh? Devo stare attento. Sì, meglio dire che un bianco abbronzato è uguale a un negro pallido. La parola diverso non la si può proprio usare, tranne che per le palline. Fa paura. Ripugna il nostro senso di giustizia, che ci porta ad altre conclusioni perfettamente logiche. Per esempio, l'uomo è uguale alla donna. Uguale, uguale, uguale. Uguale. Certo, non si può mica essere razzisti. Certo, l'uomo è proprio uguale alla donna, tranne che per le palline. Basta. Bisogna avere il coraggio di dire che un bianco è diverso da un negro, che un uomo è diverso da una donna, che uno svedese è diverso da un siciliano. Antonio. Da qualche giorno alla vostra radio si parla e riparla di negrità. Premetto che non sono un grande estimatore del popolo italiano. Questa disistima però non è preconcetta, ma discende dalla considerazione che, contrariamente a quanto occorso nel resto dell'Europa, questo popolo non ha potuto vivere da attore quelle esperienze che hanno consentito altrove la formazione consapevole della borghesia. Questa grave carenza formativa è, a mio avviso, responsabile di tanti degli atteggiamenti tipici degli italiani. L'individualismo sicuramente è uno degli aspetti principali ed è tipico di chi non è abituato al confronto e di chi soffre l'idea del confronto. Gli italiani hanno sostanzialmente una cultura anti. Sono anticomunisti, anticlericali, antiberlusconiani. La nostra opposizione, quella politica, si è sempre manifestata per essere contro e non per essere propositiva in modo alternativo. È molto diffuso il cosiddetto opinionismo, su cui non vale la pena spendere troppe parole. Il termine suona già da solo sufficientemente offensivo. Vorrei affermare che gli italiani hanno paura di scoprirsi razzisti. Dopo tante trasmissioni e interventi ascoltati a tal proposito, mi verrebbe voglia di dire: ebbene, sono un razzista. Non perché lo sia, ma solo per provocare e per dimostrare che alla fine sarei solo oggetto di un fiume di contumelie basate spesso su luoghi comuni. Ma cosa significa effettivamente razzismo? Un'osservazione. Gli italiani sono un popolo il cui grado di consapevolezza in termini di cosa pubblica e di stato di diritto, tanto per citare due esempi macroscopici, è nullo, o quasi nullo. Non è questa una contraddizione immensa per chi si professa antirazzista? Personalmente, allora, ritengo che il termine razzista continui ad essere utilizzato nel suo significato più ridotto, o meglio, nella sua accezione estetico-politica più facilmente spendibile, che costituisce invece l'ennesimo trionfo di quella ipocrisia di cui gli italiani dovrebbero sentirsi l'essenza. In realtà la situazione è esattamente all'opposto. Gli italiani soffrono moltissimo il diverso da se stessi e sono al contempo orgogliosi della propria diversità individuale. Ma gli italiani, oltre che ipocriti, sono anche un pochino vigliacchi e non a caso sono diventati maestri nell'arte del ridicolizzare, che costituisce il mezzo con cui si può massacrare il diverso prescindendo dal confronto e dal dibattito. Quello che più mi irrita è il constatare che nell'affrontare il problema del razzismo, la maggior parte degli italiani non mostra avere la consapevolezza storica che tale problema comprende. Marcello. I negri sono diversamente bianchi, i nani sono diversamente alti, i gay sono diversamente etero, i deficienti sono diversamente intelligenti e via così. Andrea Forlì. Ho sentito alla vostra radio che l'Egitto lamenta che in Italia non vengono rispettati i più elementari diritti su persone immigrate in Italia per lavorare. Ciò può essere vero, ma è ridicolo che tale lamento venga dall'Egitto, un paese che vieta ancora alle donne di uscire liberamente alla sera da sole, e nelle spiagge, dove vanno i turisti, sono costrette a indossare i loro veli anche con il caldo torrido. Personalmente ho anche visto con i miei occhi una donna egiziana essere costretta a farsi il bagno in mare con non so quanti veli ancora addosso. Morale della favola? Che si guardino prima a casa loro. Fabrizio Savona. Cara Radio 24, credo si debba ammettere senza pudori che l'Italia, con riferimento ai recenti fatti di Rosarno, non abbia fatto del tutto una bella figura. E uso una litote per carità di patria. Vorrei comunque evidenziare che nella vicenda due organismi di fondamentale importanza nel quadro istituzionale dello Stato, come l'Ispettorato del Lavoro competente in quella provincia e la ben nota triade sindacale CGIL CISL UIL, non avessero denunciato quello che stava accadendo in quel territorio a danno dei gruppi migratori impiegati al lavoro nelle campagne. A parte lo spregevole sfruttamento di costoro, è da considerare la mancanza di qualsivoglia tutela sociale e sanitaria, nonché l'evasione contributiva e fiscale che ne conseguiva. E non ci si venga a dire che la colpa è tutta dell''Ndrangheta. Angelo, da Genova. Ma chi sono gli abitanti dei centri sociali? Chi sono quegli elementi che in ogni occasione scendono nelle piazze a finta difesa di chi soffre, a finta difesa di chi ha problemi e colgono ogni situazione come pretesto per sfasciare e creare problemi di ordine pubblico? Chi sono? Come vivono? Di che vivono? Chi li protegge o li finanzia e li chiama a raccolta? Perché ogni volta dobbiamo assistere alla violenza che queste persone esercitano sulle auto, le vetrine, i muri, i cassonetti? Perché dobbiamo accettare che il linguaggio della forza fisica sfoghi la sua rabbia, senza nulla ottenere se non costi per la società, che in silenzio ogni volta deve poi rimboccarsi le maniche per riassestare quello che loro distruggono? Ma chi sono? Sono andati a protestare per l'allontanamento dei clandestini in Calabria, come se fosse meglio far finta di non vederli e lasciarli vivere in quelle condizioni. Non sarebbe stato meglio scendere prima, per denunciare la loro miseria e la loro vita da topi? Giulia. Il terremoto sociale atteso dalle Cassandre che scrutano l'orizzonte e pronosticano un collasso dei sistemi di welfare in realtà è già qui. Nasce da fenomeni come i crescenti squilibri nella distribuzione del reddito e le maggiori pretese del capitale apolide e si manifesta in forme di malessere, soprattutto dei giovani. Nuove generazioni costrette a ridimensionare le loro aspettative, ad accettare situazioni di precarietà professionale, spesso a continuare a vivere fino a 40 anni nella casa dei genitori. Se da un lato il lavoro diventa sempre più precario, dall'altro il capitale si stabilizza. Il lavoro ha nel tempo percepito una quota decrescente della ricchezza prodotta, tutto qua, a partire dal 1980. In sostanza, quasi tutta la ricchezza aggiuntiva prodotta dal sistema economico, e ciò è facilmente ricavabile dai dati, in Italia in particolare, dove le remunerazioni sono dal 30 al 50% inferiori a quelle per le stesse mansioni dei partner europei e della Svizzera, negli ultimi 25 anni è andata ad accrescere la remunerazione del capitale, mentre al fattore lavoro sono rimaste le briciole. Il sistema finanziario globale deve rendersi conto che comprimere redditi e condizioni di lavoro, fino al punto da rimettere in discussione conquiste del secolo scorso, ormai vissute come irrinunciabili, a diritto, rischia di far saltare il banco. In Italia la parola welfare è travisata e la si applica soprattutto al concetto di pensioni. Occorre invece pensare alla protezione delle incertezze della vita lavorativa, alla riqualificazione professionale, all'outplacement, ai sostegni alle fasce più deboli della popolazione, come le ragazze madri o l'assistenza agli anziani. Tutti interventi che hanno la funzione di ammortizzatori sociali e stabilizzatori automatici e che rendono il sistema più forte. Sì, ma chi paga? Senza dubbio occorrono risorse. E quando occorrono risorse si parla di lotta all'evasione. Quindi rimangono soltanto le parole. È dalla lotta all'evasione che parte una seria riduzione delle aliquote e la lotta all'evasione si fa punendo duramente gli evasori, fino alle manette, per evasioni di una certa rilevanza. Occorre dare rilievo al carattere penale dell'evasione fiscale. Occorre un'azione di lotta in grado di recuperare effettivamente il maltolto. Alex. Quale relazione si può stabilire nell'area della cultura occidentale tra espressione affettiva e funzione e ruolo della tecnologia? Può la potenza variegata della tecnica depotenziare gli impulsi all'estroversione dei sentimenti? O al contrario, dar loro la possibilità di potersi veramente manifestare? Se osserviamo il mondo giovanile della società occidentale, forse si può trovare una risposta a questa domanda. Il comportamento giovanile si presenta spesso assente, chiuso in una solitudine incomprensibile, ostinato in un ascolto interiore che appare problematico e inquietante al mondo degli adulti. Si tratta di un atteggiamento consapevole, di semplice rifiuto delle convenzioni sociali, oppure scaturisce da un qualcosa di più profondo, da un vuoto inspiegabile creato proprio dal benessere tecnocratico. Paradossalmente, la decantata evoluzione materiale si accompagna a una pesante introversione, alla contemplazione angosciante del nulla. Come spiegare questa relazione inversamente proporzionale, questo scompenso della personalità, in cui gli estremi non si toccano e non interagiscono? Si potrebbe sinteticamente rispondere con una lapidaria e incisiva affermazione di Pierpaolo Pasolini: la droga è un sostituto della magia. In questa intuizione folgorante possiamo individuare il nichilismo giovanile, questo vuoto, e nello stesso tempo questo desiderio di colmare un lacerante vuoto di cultura. Nonostante il benessere materiale, l'uomo occidentale non è riuscito ad educare la magia. Nel profondo, i giovani continuano a vivere insicurezza, insoddisfazione, frustrazione repressa e sublimate in atteggiamenti artificiali, esibizionistici e infantili. La magia appartiene al mondo del folklore, all'antropologia, alla funzione del rito di iniziazione, al sacrificio, al potluck, cioè all'orrore verso l'opulenza del denaro. Non si tratta evidentemente di recidere il passato, ma che l'uomo occidentale utilizzi le sostanze stupefacenti al posto dell'antica magia significa che il dono, l'altruismo e lo spirito di carità sono stati distrutti nella totale indifferenza umana e istituzionale. Da qui, a mio avviso, la grande pauperizzazione affettiva che caratterizza le nuove generazioni, almeno da quasi un trentennio. Mario Antonio, Catania. Noto con dispiacere una sempre maggiore discrepanza fra la realtà narrata dalla sua testata e quella che riscontro ogni giorno all'interno delle aziende. Sono a segnalarle alcuni casi che chiunque lavori o frequenti le aziende del Nord Italia vede ogni giorno. Parlate spesso della cassa integrazione, ma non ho sentito una sola parola sulle aziende che ne usufruiscono, per poi far lavorare i dipendenti in nero, risolvendo in questo modo il problema della liquidità e della pressione fiscale all'italiana. Ma è mai possibile che una testata che ha inviati in tutto il mondo non sia riuscita a seguire un solo rivolo dei miliardi confluiti in Italia? Dov'è finito il giornalismo? Nemmeno una parola poi sull'ennesimo conflitto di interessi dato dal fatto che Banca Mediolanum guadagna sulla gestione di detto denaro, rientrato in forma anonima grazie a una misura promossa dal padrone di Mediolanum. Guardi, per sgomberare il campo, direi la stessa cosa se fosse Banca Bononia e il citato padrone fosse dall'altra parte della maledetta barricata. Dico maledetta perché trattasi di pagliuzza nell'occhio che impedisce di far vedere varie travi. Perché questa enorme distanza fra la realtà che la sua testata racconta e quella del paese? Per ovvie ragioni, date da quell'ennesimo costume di mettere nei guai chi segnala gli abusi invece di chi li perpetra, le chiedo di non rendere pubblico il mio nome. Anonimo. Gentile anonimo, lei ci accusa di nascondere la realtà, di sorvolare sul conflitto di interessi di Berlusconi, di non denunciare le ingiustizie che vengono compiute dagli imprenditori. E nello stesso tempo vuole lanciare il sasso e ritirare la mano. Non vuole che si faccia il suo nome. Non vuole avere nessuna responsabilità nelle sue denunce, peraltro generiche, e frutto più di sentito dire che di osservazioni oggettive. E allora mi scusi, ma è proprio questo suo atteggiamento che voglio contestare. Noi alla radio, come al Sole 24 Ore, ci mettiamo il nostro nome, la nostra voce, il nostro volto. Ci assumiamo la nostra responsabilità. senza moralismi, senza ergerci a giudici, senza pronunciare sentenze che spettano alla magistratura. E allora abbia il coraggio anche lei di documentare le sue accuse e di farlo con nome e cognome, in pubblico, con chiarezza e trasparenza, come cerchiamo di fare noi e come abbiamo sempre fatto, per esempio, sul conflitto di interessi di Berlusconi. Un conflitto che, quando ce n'è stata l'occasione, anche in alcune risposte alle lettere, ho sempre considerato come un elemento negativo per la politica di questo paese. Il conflitto di interessi c'è ed è palese. Ma mi scusi, pensare che il Presidente del Consiglio abbia varato lo scudo fiscale solo per favorire una banca partecipata dalla sua azienda è un voler pensare male a tutti i costi, in un gioco al crescente sospetto e alle accuse a cui non voglio certamente partecipare. Ho sentito la lettera di lunedì sera dove un ascoltatore ha messo in pura e fredda matematica statistica il grosso problema dello spreco. Credo che anche questa sia una prova, uno specchio degli insegnamenti di questi ultimi anni, e cioè l'abitudine di pensare in piccolo, soprattutto a livello individuale, e la tendenza a trasformare tutto in statistiche e sondaggi. Sinceramente non è la prima volta che sentivo un ragionamento di quel tipo, però ho cercato di immaginarmi cosa potessero rappresentare quei 4 grammi di pane a testa, se moltiplicati per svariati milioni di teste, o qualche frutto moltiplicato per milioni di persone, qualche bistecca dimenticata e fatta marcire nel frigo, o la macchina tenuta accesa inutilmente per svariati minuti al giorno, moltiplicata per qualche milione di auto. Potrei andare avanti fino a sera, ma il fatto rimane che siamo sempre più propensi a pensare entro il nostro orticello, trovando inutili e deleterie scusanti. Rudy. Egregio direttore, dopo che il Presidente del Consiglio aveva annunciato che avrebbe messo a punto una riforma fiscale durante le vacanze di Natale, ero curioso di conoscere come avrebbe risolto lo slalom tra gli attuali scaglioni di reddito e l'obiettivo di avere due sole aliquote fiscali, 23% e 33%. Mi sono chiesto dove avrebbe fissato i paletti e pensavo che avrebbe dovuto inventarsi modelli matematici o algoritmi. Niente di tutto ciò. Fissando un solo paletto a 100.000 euro, ha trasformato una gara di slalom in una discesa libera. Squalificato. Agostino. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18.30. Continuate a scriverci.